Incontri di Gianfranco Fabi. Motocicletta, 10 HP, la mia tutta cromata, e tua 16. Queste note di una band rock iniziamo il nostro incontro di questa sera. Buonasera a Massimo Scaccavarozzi. Buonasera. Massimo Scaccavarozzi è presidente di Farmindustria, ma è anche l'interprete di questo brano musicale che stiamo sentendo, Tempo di morire, di Lucio Battisti, rivisitato secondo gli schemi rock. Ecco, presidente di Farmindustria, ne parleremo più avanti. Presidente, amministratore delegato della Janssen, che è una grande industria farmaceutica, se non potrebbe essere presidente di Farmindustria, se non potrebbe essere presidente della grande industria farmaceutica, ma per passione anche a capo di una band rock. Com'è nata questa passione e com'è nata questa band? Ma la passione nasce da ragazzino, perché a me è sempre piaciuta la musica, in modo particolare la musica rock. Mi piaceva strimpellare la chitarra. 5 anni fa abbiamo provato a mettere in piedi una band per un evento aziendale di beneficenza. Abbiamo fatto 4-5 pezzi, abbiamo visto che c'era un'amalgama, e allora il nostro manager della comunicazione dice: beh, però siete bravini, perché non proviamo a organizzare qualche concerto magari di beneficenza? Da allora non ci siamo più fermati, ne abbiamo fatti 44. Quindi in 5 anni 44 concerti, sì. Rubando un po' di spazio all'impegno aziendale, però sono tutti partecipanti uomini d'azienda. Sì, è una band che ha due caratteristiche. La prima caratteristica è che tutti quelli che ci suonano fanno un altro lavoro, e la seconda è che lo fanno tutti per la stessa azienda, perché sono tutti collaboratori della Janssen. Quindi se si vuole suonare la band si deve essere collaboratori, se si lascia la Janssen si lascia la band. Si lascia la band, quindi è strettamente collegata. Assolutamente. Non è solo un dopolavoro aziendale, ma quasi. No, è un grande impegno di cuore, perché è una band che sta girando un po' tutta l'Italia, ma anche qualche tappa l'abbiamo fatta in Europa, e lo facciamo esclusivamente per beneficenza, per aiutare associazioni che hanno bisogno di fondi o di raccogliere qualche cosa che dia speranza a chi ha meno fortuna di noi. Quindi come si chiama questa band? Si chiama JC Band, che nasce proprio dal nome dell'azienda, che era Janssen Cila, che quindi JC Band. JC Band, e quindi un'azienda, andiamo un po' a vedere l'azienda, ma forse prima sentiamo un altro piccolo brano cantato e suonato da voi. Ma questo è un brano di Vasco Rossi. Vasco Rossi è molto presente nelle nostre esibizioni, perché intanto ci piace molto, e poi perché Vasco Rossi ha la capacità in alcuni testi di esprimere quel cuore, quella solidarietà che caratterizza la nostra band. Ha dei pezzi stupendi come questo, c'è chi dice no, vivere un senso, perché sono pezzi che noi facciamo perché danno proprio un senso a quello che facciamo. Un senso e una carica. Vivere è un inno alla vita straordinario, e suonando noi spesso per persone che hanno problemi e difficoltà con la vita dà un'energia in più anche a loro. Ecco, i farmaci, diamo un po' del business a questo punto, i farmaci sono importanti come business, sono importanti anche per aiutare le persone a vivere meglio, e si sente in questo anche una certa missione in quello che fa come azienda farmaceutica. Guardi, io faccio un lavoro meraviglioso, che non è quello di suonare in una band, faccio un lavoro meraviglioso perché ritengo che chi lavora in questo settore tutti i giorni fa qualcosa per regalare salute, per fare del bene alle persone che purtroppo hanno questo tipo di problema. E quindi io sono molto fiero e orgoglioso e faccio questo con passione tutti i giorni. Ecco, nella visione comune spesso le aziende farmaceutiche sono viste come cinicamente qualcosa che approfitta delle malattie degli altri. È vero, noi non abbiamo una grandissima immagine, basti pensare però a tutto quello che siamo stati in grado di fare negli anni. Pensi che dal 1951 a oggi ogni 4 mesi di vita ne abbiamo guadagnato uno. Noi oggi ogni giorno guadagniamo 6 ore di vita, guadagniamo 15 minuti all'ora, 15 secondi al minuto, proprio grazie al fatto che ci sono stati dei salti terapeutici straordinari. Pensi per esempio alla malattia forse più giovane che c'è nella nostra storia, che è l'AIDS. 10-15 anni fa era una malattia fatale, oggi un paziente che ha l'HIV, se siede davanti al medico, ha un'aspettativa di vita più lunga di un paziente che soffre di diabete. Quindi questo grande salto terapeutico è stato possibile solo alla ricerca. E il profitto che giustamente le aziende farmaceutiche hanno è proprio perché devono reinvestire in ricerca e produrre i farmaci. È un impegno abbastanza oneroso, solo basti pensare che 1 su 10.000 arriva sul mercato e per sviluppare un farmaco oggi servono 1.300.000.000 di investimenti. Ecco, voi siete come Janssen parte di una grande multinazionale che è la Johnson & Johnson. Come si colloca l'Italia nel campo della farmaceutica? È un paese periferico o un paese che ha un ruolo da svolgere a livello anche di ricerca oltre che di produzione? Allora, l'Italia si colloca come un paese difficile per quanto riguarda il mercato, ma un paese straordinario per quanto riguarda la ricerca e la produzione. Noi siamo, adesso qui parlo un po' come presidente dell'associazione, pensi che noi siamo un grande paese produttivo, abbiamo 176 fabbriche, esportiamo il 70% di quello che produciamo e addirittura siamo secondi come presenza industriale solo la Germania, ma li superiamo come produttività per addetto. Quindi abbiamo una presenza industriale molto molto forte, molto radicata, che deriva dall'esperienza e che deriva dalla grande qualità delle nostre produzioni. Ecco, forse è poco conosciuto il fatto che l'industria farmaceutica sia un'industria anche di esportazione, che esporta i propri prodotti. Quali sono i vostri mercati principali? Ma allora, noi oggi produciamo per tutto il mondo, produciamo farmaci che poi vengono commercializzati in tutto il mondo, proprio perché abbiamo la fortuna di avere questa concentrazione industriale. E nell'epoca in cui si sta facendo la globalizzazione anche delle produzioni, là dove ci sono rappresentano un punto importante per continuare a investire, sviluppare e aumentare le produzioni. Poi trasportarli è una cosa molto semplice. Ecco, le multinazionali sono un po' messe sotto la lente in questo periodo. Abbiamo avuto il caso della Fiat, che ha deciso di costituire la propria sede tra l'Olanda e la Gran Bretagna. Abbiamo avuto il caso dell'Electrolux. Come è vista l'Italia dalla Johnson & Johnson? Ma l'Italia è vista come un paese, come le dicevo prima, difficile, perché è comunque un paese molto importante. È un paese che ha, oltre che ha un mercato significativo, è un paese che ha delle qualità eccellenti. E questo è innegabile. Ed è un paese in cui la Johnson & Johnson sta investendo, è un paese in cui ci si crede. Noi stiamo cercando con grande difficoltà di convincere gli investitori esteri a investire nel nostro paese, proprio perché io, vede, tutti i giorni non mi sento in competizione con i miei colleghi delle altre aziende che operano sul mercato italiano. Io mi sento in competizione con i miei colleghi di Janssen e di Johnson & Johnson, perché ognuno di noi cerca di attrarre gli investimenti nel proprio paese. Quindi non a caso io sono stato uno tra i primi a coniare il termine che noi siamo tutte imprese italiane, poi ci sono imprese italiane a capitale americano, a capitale europeo e a capitale italiano, ma tutte lavorano in Italia per il bene economico di questo paese. Ecco, in questo senso lei diceva anche con una capacità a livello di produttività, a livello di qualità del lavoro, a livello quindi di competitività, che è sicuramente un punto di forza per l'Italia. Assolutamente sì, noi siamo estremamente competitivi anche se abbiamo dei costi superiori, perché è chiaro quello che dice anche il nostro presidente Squinzi in Confindustria: noi abbiamo una tassazione esasperata, abbiamo costi di energia, però superiamo ancora con una grande qualità, una grande concentrazione e rimaniamo competitivi anche nei confronti dei paesi emergenti. Cioè riusciamo a difenderci nonostante, con problemi anche particolari per l'industria farmaceutica, ma li vedremo nella seconda parte del nostro programma. Restate con noi, adesso un po' di spazio nelle notizie sul traffico. Incontri. Con le note di Stupendo, rivisitata da Vasco Rossi, da questa band aziendale formata dai dipendenti di JNC Italia e guidata dal suo presidente Massimo Scaccabarozzi, che abbiamo qui questa sera. Massimo Scaccabarozzi è anche presidente di Farmindustria. Ecco, come scegliete i vostri brani, le vostre canzoni? Ma allora, intanto cerchiamo di scegliere dei pezzi che siano conosciuti, noti, e scegliamo pezzi rigorosamente rock. Ovviamente i rocker per eccellenza italiane sono Vasco e Ligabue, però facciamo anche un repertorio internazionale. E poi ultimamente ci piace prendere canzoni magari anni 60, Battisti, facciamo persino un pezzo di Baglioni in versione rock e li riarrangiamo in versione rock. Non ha protestato Baglioni? No? Spero di no. Spero che non se la prenda troppo. Infatti io quando presentiamo questi brani chiediamo sempre scusa agli autori originali, perché li stravolgiamo un po'. Ecco, ma il rock è un po' l'immagine di una musica un po' trasgressiva, un po' sopra le righe. Comunque è una musica che piace. Voi come la interpretate? Sì, è una musica che piace molto. Noi abbiamo all'attivo, oltre che questi 44 concerti, 4 CD sempre per beneficenza. Cito i CD per un semplice motivo, che questi CD si chiamano Rock Song is a Love Song, perché proprio il messaggio che c'è dietro è proprio questo: una canzone rock può anche essere una canzone d'amore. Rock and roll. Canzone d'amore, e lei si sente di fare un atto d'amore anche nella sua missione imprenditoriale? Sì, io nel ripeto, tutti i giorni penso che il lavoro che facciamo noi deve essere finalizzato per una sola cosa: per le persone. Non li chiamo neanche pazienti, perché i pazienti sono delle persone. Alla fine di tutta la nostra catena, che va dalla ricerca fino alla messa a disposizione del prodotto finito, c'è sempre un paziente e noi abbiamo sempre in testa il paziente. Questo, ecco, è quello che mi anima e che mi fa vivere molto bene e con serenità quello che faccio. Come è entrato nel settore farmaceutico? Magari per caso? Ma io per caso, io mi ricordo che avevo finito il liceo, dovevo iscrivermi all'università, non sapevo bene che cosa fare come molti ragazzi oggi. Mi sarebbe piaciuto fare medicina, forse però lo ritenevo troppo lungo, economicamente pesavo sulla mia famiglia, ho detto vabbè, mi sembra che la cosa più vicina sia farmacia, e mi sono iscritto a farmacia. Ho finito l'università e come sempre succede, adesso cosa faccio? Ho detto in farmacia non so se me la sento di andare, quindi ho preso le pagine gialle, allora sì, c'erano le pagine gialle, e ho preso l'elenco delle industrie farmaceutiche della zona di Milano, ho scritto un curriculum in una maniera pietosa, che oggi se mi arrivasse un curriculum così non lo prenderei nemmeno in considerazione, ma allora si scrivevano a macchina, e l'ho portato porta a porta, e finché ho trovato un impiego come informatore scientifico. Quindi io vengo dalla strada, dalla gavetta, ho fatto l'informatore, sono molto orgoglioso di aver fatto l'informatore, perché penso... L'informatore scientifico vuol dire il commesso viaggiatore. Sì, diciamo che è una persona che ha un ruolo importante, perché collabora con il medico per fargli percepire bene il valore del farmaco e a quale paziente può essere dato piuttosto che a un altro, certo. Insomma, in modo tale che non si commettano degli errori. Ecco, in questo senso i medici sono spesso accusati di eccedere un po' troppo nel prescrivere farmaci, e spesso anche la visione comune è quello che la spesa per i farmaci sia una delle componenti un po' di questi problemi che ha la spesa pubblica in Italia. Sì, i medici intanto fanno un grandissimo lavoro, perché oggi fare il medico nel nostro paese non è facile, e io qui vorrei proprio dire una cosa, visto che questa è una trasmissione molto seguita: fidatevi dei medici, perché sono una classe molto preparata e sono una classe che aiuta molto i pazienti. Sulla spesa farmaceutica spesso ci sono dei pregiudizi. Bene, la gente non lo sa, ma la spesa farmaceutica è l'unica spesa che intanto è sotto controllo, perché non rappresenta così tanto nella spesa sanitaria, è solo il 15%, ed è l'unica voce di spesa che è controllata, e lo Stato sa all'inizio dell'anno quanto spende, perché fissa un budget, fissa un tetto, e lo Stato spende quella cifra. Se quel tetto viene superato, la cifra eccedente viene restituita dalle aziende del farmaco. Quindi potremmo, per assurdo, ma in realtà è così, dire che l'assistenza farmaceutica lo Stato la dà fino a un certo punto. Da quel punto in poi, se viene superata la spesa prevista, l'assistenza è a carico delle imprese del farmaco, che, pur avendo consegnato, eticamente non ci possiamo rifiutare, dobbiamo restituire i soldi. E quindi restituire i soldi, che questo si aggiunge un po' a un altro problema, che è quello dei pagamenti. C'è un problema di pagamenti da parte della pubblica amministrazione, di ritardi nei pagamenti. Vede, quello che dice lei è molto corretto. Noi viviamo praticamente in regime di monopolio con lo Stato, che è il nostro unico, diciamo, generalmente l'unico cliente, quindi fa le regole e ci paga. Oltre che a fare le regole, ci paga quando può, quando vuole. E noi abbiamo ormai dei tempi pagamento abbastanza biblici, perché le cose sono un pochino migliorate nell'ultimo tempo, ma siamo sempre sopra i 200 giorni. Ecco, nell'ambito di Farmindustria, qual è la richiesta maggiore che fanno i vostri associati? Noi abbiamo bisogno di un periodo di stabilità. Non chiediamo favori, non chiediamo incentivi, chiediamo stabilità. Perché se abbiamo stabilità siamo in grado di produrre qualcosa di economicamente importante per il paese. Non dimentichiamoci che esportiamo, e quindi nell'economia l'export è un dato importante, e quindi con la stabilità noi siamo in grado di garantire dei notevoli e cospicui investimenti in questo paese. Ecco, investimenti che sono soprattutto in ricerca, sul nostro campo. Sì, ricerca e produzione. Noi abbiamo circa, se lei pensa che il mercato farmaceutico vale 12 miliardi, noi ne investiamo 4 in ricerca, di cui ce n'è qualcuno in ricerca e sviluppo, altri in ricerca e produzione, proprio perché abbiamo delle realtà produttive importanti. È possibile fare ricerca in Italia? C'è anche, chiamiamolo così, materiale umano, i ricercatori che possono fare della ricerca in questo campo? Vede, la ricerca è molto cambiata negli anni. Oggi esistono i network di ricerca. Un'industria privata che fa ricerca oggi non può prescindere dal farla in collaborazione con le istituzioni private. Quindi noi la nostra ricerca la facciamo in collaborazione con l'università, con gli ospedali, con i dipartimenti ospedalieri, quindi è finanziata da noi. La ricerca nasce magari nelle imprese e poi finisce nelle istituzioni, negli ospedali, dove ci sono dei ricercatori ottimi che non hanno pari in Europa. Se ce li hanno, ce li hanno a pari, quindi non siamo inferiori a nessuno da questo punto di vista. Ecco, ogni tanto la sanità italiana viene alla ribalta per episodi indubbiamente spiacevoli, quelli che vengono chiamati di mala sanità. Sono l'eccezione, la regola è una sanità che funziona in Italia. Sì, la sanità funziona, gli episodi di mala sanità sono un male che deve essere perseguito. Io dico sempre, in questi casi amo la magistratura, che deve fare il suo corso e deve essere spietata, e questo un po' ci penalizza, perché basta un caso di mala sanità per far dimenticare che tutti i giorni milioni e milioni di pazienti sopravvivono di più, come dicevo prima, un mese ogni 4, grazie alla ricerca, grazie all'impegno dei medici, grazie all'impegno di una sanità che, comunque, non dimentichiamo, è una buona sanità, perché non tutti i paesi hanno un sistema universale universalista come abbiamo noi. Ecco, quindi una buona sanità che riesce appunto ad avere anche livelli di eccellenza in molti casi, anche grazie a una collaborazione. C'è collaborazione tra il pubblico e il privato? Sì, questo è molto cambiato negli anni, c'è una grande collaborazione. Io da sempre dico che bisogna passare dallo spirito di contrapposizione allo spirito di collaborazione. Noi possiamo fare molto anche in termini di passare i nostri processi industriali anche alle istituzioni pubbliche. Magari un'ASL può essere gestita meglio se si applicano dei processi industriali, e noi li abbiamo, noi siamo i conoscitori di questa materia e la mettiamo spesso a disposizione anche delle istituzioni pubbliche. E anche a livello di band, anche a livello di musica, ci vuole un po' di esperienza industriale per mettere insieme delle persone, per fare appunto anche qui dei passi in avanti sul fronte di un successo magari destinato alla solidarietà, ma comunque deve essere qualcosa che si fa sentire. Sì, ci vuole una programmazione, però ci vuole una caratteristica che io, mi scusi forse la presunzione, ma cerco di mettere in tutto quello che faccio, che è il cuore. Si può gestire un'azienda col cuore, si può suonare in una band con il cuore. Ecco, io penso che quello che si sente ai nostri concerti sono due cose: che ci mettiamo tanto cuore e che soprattutto ci divertiamo noi per primi, poi se si divertono anche gli altri ci fa piacere. E se le offrissero di fare a tempo pieno il musicista e magari a tempo parziale il manager? Non so se esista un pazzo di questo tipo, ma se me lo propongono lo prendo domani mattina, anche subito. E quindi, sentendo ancora qualche brano musicale dalla band JC, che è possibile sentire anche su YouTube probabilmente. Sì, su YouTube abbiamo tantissima presenza, proprio perché poi, vede, mi aiuta molto il fatto che, essendo presidente di Farmindustria, spesso quando faccio i concerti qualche media ci segue, e quindi abbiamo avuto qualche passaggio in televisione, sui giornali, e questo aiuta, non tanto la band, perché non mi interessa. Quello che a noi interessa è che si facciano conoscere e si aiutino le associazioni che sosteniamo, perché sono persone straordinarie, quasi sempre volontari, che hanno bisogno di aiuto. E il volontariato è una cosa importante nel nostro paese. Allora, complimenti per questo impegno a Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria e presidente di Janssen Italia, di essere stato con noi questa sera. Ringraziamo anche Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. E vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie ancora, buona serata.